La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino. Eccoci, buongiorno, ben ritrovati e ben ritrovate alla rassegna stampa del Wombat, Radio Wombat ovviamente, rassegna stampa settimanale, per noi mensile perché ce la stiamo dividendo così, ma per voi che ci ascoltate è settimanale, che è rassegna stampa che tiene conto quindi degli avvenimenti, delle notizie, delle amenità che sono successe nella settimana che va dal 28 maggio a oggi, che è lunedì 4 giugno. Mezzogiorno in punto, siamo puntualissimi e vi ricordo per prima cosa i social Wombat, ovvero il sito wombat.noblogs.org, dal quale probabilmente ci state ascoltando attraverso il nostro meraviglioso pulsantone su cui cliccate per ascoltare la diretta streaming, oppure l'app se siete più tecnologici, oppure la casella di posta, postawombat@insiberia.net. Con la quale potete comunicare con noi, raccontarci le cose che volete e insultarci, dirci cose belle, complimenti e quant'altro. Siamo qui con i miei due nuovi compari, cioè un nuovo compare e un altro non nuovo, che però ancora non ha trovato un soprannome, vero? Sono lento, scusate. Madonna, com'è lei, è proprio lei. Potremmo fare un soprannome tipo Bradipo, un... Però tipo, guarda che non è brutto, Non è male. Pensaci. Va bene. E l'altro compare, che anche lui mi sa che non ha un soprannome, perché figuriamoci se quello che è da 6 mesi non c'ha. Vabbè, non importa, noi non ci teniamo a queste formalità. E quindi iniziamo subito con la nostra rassegna stampa. Allora, ci sarebbe da dire tantissime cose, perché sono successe tante robe, tra cui fra l'altro che abbiamo un governo. Siamo tutti molto contenti di questa cosa, no? Finalmente c'è uno Stato. Sì, davvero. Io stavo bene senza, però, non so voi, cioè... Ma non era malaccio, dai. Dai, si sta, pure il rischio che si superano i record di Minniti. Ma infatti. Ma a prescindere dall'andamento, no? In ogni caso, secondo me, senza... Si stava, beh, cioè alla fine tutto, il mondo sprofonda nell'anarchia senza governo. Ma noi tutto sommato in sto mesetto, quanto è stato, di più 2 mesi, ci stava proprio bene. Quindi vabbè, però hanno deciso che dovevamo fare sta roba e di sto governo e l'hanno fatto. Quindi non potevamo esimerci dal rendervene conto, ma l'abbiamo fatto il meno possibile. Vi giuriamo, ne abbiamo parlato il meno possibile, anche perché tanto vi avranno fatto due palle così tutti, giornali, telegiornali, social network eccetera, non è che anche noi vi dobbiamo tediare con queste cose, quindi abbiamo scelto invece tanti altri articoli, approfondimenti che, su cui magari siete un po' meno informati, su cui volete appunto approfondire. Quindi partiamo subito da una notizia tremenda. Sì, i primi frutti del nuovo governo, appunto, sì. In particolare del nuovo ministro degli interni. Articolo da Osservatorio Repressione, www.osservatoriorepressione.info. Migranti, la dottrina Salvini fa il primo morto, bracciante maliano ucciso a fucilate. Per l'appunto. È finita la pacchia. La dottrina di Matteo Salvini ha fatto scorrere il primo sangue ieri sera in Calabria. Il sangue di Sumalia Saco, migrante maliano di 29 anni, sempre in prima fila nelle lotte dell'Unione Sindacale di Base per i diritti sindacali e sociali dei braccianti. Infatti non l'ho detto e questo è il comunicato dell'USB ripubblicato su questo sito. Sumalia è stato ucciso da una delle fucilate sparate da sconosciuti da una 60ina di metri di distanza. Un tiro al bersaglio, diversi colpi esplosi contro lo straniero, il nero cattivo da rispedire nel paese d'origine. Il triste seguito delle parole pronunciate dal nuovo ministro di polizia. Sumalia è stato colpito alla testa ieri sera, intorno alle 20:30, nei pressi di una fabbrica abbandonata lungo la statale 18, in contrada Calimera di San Calogero, vicino Rosarno, al confine tra la provincia di Vibo e quella di Reggio Calabria, mentre cercava lamiere per la sua baracca. Soccorso dal 118 è trasportato prima all'ospedale di Polistena e poi nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Reggio Calabria, Sumalia non ce l'ha fatta, mentre da Trameglio ha due connazionali che erano con lui, uno colpito a una gamba e l'altro illeso. Tutti e tre vivevano nell'area della tendopoli di San Ferdinando, in cui soggiornano i braccianti impegnati nei campi nella piana di Gioia Tauro. Nella zona sono oltre 4.000 i braccianti, tutti migranti durante la stagione di raccolta, distribuiti in vari insediamenti e utilizzati come manodopera nella raccolta di agrumi a basso costo dai produttori di arance, clementine e kiwi. La maggior parte si concentra a San Ferdinando, dove permangono gravi carenze igienico-sanitarie a livello abitativo. Tutto questo al ministro di Polizia Salvini non interessa. Troppo impegnato a minacciare a destra e a manca. I migranti, le ONG, il sindaco di Riace perché si schiera con gli ultimi. A Salvini l'Unione Sindacale di base manda a dire che l'USB si schiera compatta con i migranti della piana di Gioia Tauro, con tutti i migranti in fuga da guerra e miseria, e non permetterà che in Italia abbia diritto di cittadinanza la sua dottrina neofascista e razzista. La prima risposta è lo sciopero dei braccianti proclamato dall'USB per lunedì 4 giugno, con assemblee in tutti i posti di lavoro. L'USB si stringe compatta alla famiglia di Sumalia e ai suoi compagni e fornirà loro l'assistenza legale per fare giustizia. Unione sindacale di base. Sì, e tra l'altro nella rassegna stampa di oggi, oltre a questo episodio, vi daremo conto di qualche altro episodio successo in settimana e che ci rimanda appunto un quadro di una pesantezza dove si inserisce adesso Salvini, ma che evidentemente, insomma, non è che i suoi predecessori hanno fatto di meglio, tant'è che Salvini la prima cosa che ha fatto è stato dire che tutto sommato l'operato di Minniti finora non era niente affatto male, quindi insomma c'è un continuum, non ci preoccupiamo, non ci saranno sconvolgenti trasformazioni, perché purtroppo si stava già una merda anche prima, e quindi insomma si inserisce dentro, probabilmente sì, ma peggiorare, ma insomma già una situazione piuttosto difficile. Allora oltre a dire che sì, la pacchia per gli immigrati era finita, sì, visto che, sì, sappiamo tutti che raccogliere i pomodori sotto il sole per tenerlo all'ora è una gran pacchia, davvero. Sì. Ah, ma quanto stavano bene. Sì, poi cioè, ti ammazzano anche ogni tanto, vabbè. Sì, infatti. Quindi sì, vita adrenalinica. Sì, ci si diverte molto. Allora, quindi, secondo articolo di oggi, siamo andati a spulciare InfoOut, vedere un po' gli articoli che proponeva per questa settimana. InfoOut ha ovviamente, come si poteva immaginare, parlato del nuovo governo e dei rivolgimenti che ci sono stati, insomma i cambiamenti che ci sono stati riguardo governo, eccetera, eccetera. E quindi ha pubblicato questo articolo, che in realtà è tratto dal manifesto a firma di Marco Revelli del 2 giugno, e quindi insomma di un paio di giorni fa. Ve lo leggo. Il populismo senza popolo al potere. Disordine nuovo titolava il manifesto del 29 maggio scorso e fotografava perfettamente il carattere del tutto inedito del caos istituzionale e politico andato in scena allora sull'Irto Colle e diffusosi in un amen urbi e torbi. Ma quell'espressione va al di là dell'istantanea e non perde certo attualità per la nascita del governo Conte. Con la sua doppia allusione storica all'ordinovismo neofascista ma anche all'originario ordine nuovo gramsciano, ci spinge anzi a riflettere da una parte sul potenziale dirompente del voto del 4 marzo reso assai visibile ora che è esploso fin dentro il palazzo provocandone una serie di crisi di nervi. Dall'altra sul carattere anche questo nuovo del soggetto politico insidatosi nel cuore dello Stato, sull'ircocervo che sta sotto la bandiera giallo-verde e che per ora è difficile qualificare se non in forma cromatica, perché quello che è andato abbozzandosi per fusione nei quasi 100 giorni di crisi seguita al terremoto del 4 marzo e infine è diventato potere, forse è qualcosa di più di una semplice alleanza provvisoria, forse è l'embrione di una nuova metamorfosi potenziata di quel populismo del terzo millennio su cui dalla Brexit e dalla vittoria di Trump in poi i politologi di mezzo mondo vanno interrogandosi. Forse addirittura è una sua inedita mutazione genetica che, fondendo in un unico conio vari ed eterogenei populismi, farebbe ancora una volta del caso italiano un ben più ampio laboratorio della crisi democratica globale. Sbagliano quanti liquidano l'asse 5 Stelle Lega con le etichette consuete, alleanza rosso-bruna, coalizione grillo-fascista o fascio grillina o sfascio leghista e via ricombinando. Sbagliano per pigrizia mentale e per rifiuto di vedere quello che va emergendo dal lago di Loch Ness. È un fenomeno politico inedito, radicato più che nelle culture politiche nelle rotture epocali dell'ordine sociale. Altrimenti dovremmo concludere che e spiegare perché la maggioranza degli italiani, quasi il 60%, è diventata di improvviso fascista. E sarebbe assai difficile capire come e per quale occulta ragione l'elettorato identitario della Lega si è così facilmente rassegnato al connubio con la platea anarco-libertaria grillina. Mi si è un po' accapponata la pelle a vedere l'aggettivo anarco-libertario insieme a grillina, scusate. E viceversa, come questo si sia pensata compatibile con i tombini di ghisa di Salvini. È dunque per molti versi un oggetto misterioso quello che disturba i nostri sonni. E in questi casi, quando si ha di fronte un'entità politica che non ci dice da sé chi sia, è utile partire dall'indagine delle cause, dalla eziologia, direbbero i vecchi padri della scienza politica, prendendo a prestito il termine della medicina come se appunto di malattia si trattasse. Da dove nasce, da quale sostrato o infezione prende origine questa cosa che ha occupato il centro istituzionale del paese, destabilizzandolo fino al limite delle entropia. Una mano forse ce la potrebbe dare Benjamin Arditi, un brillante politologo latinoamericano che ha usato per il populismo del terzo millennio la metafora dell'invitato incomodo, cioè dell'ospite indesiderato a un elegante dinner party che beve oltre misura, non rispetta le buone maniere a tavola, è rozzo, alza la voce e tenta fastidiosamente di flirtare con le mogli degli altri ospiti. È sicuramente sgradevole e fuori posto, ma potrebbe anche farsi scappare di bocca una qualche verità sulla democrazia liberale, per esempio che essa sia dimenticata del proprio ideale fondante, la sovranità popolare. È questo il primo tratto identificante del new populism, il suo trarre origine dal senso di espropriazione delle proprie prerogative democratiche da parte di un elettorato marginalizzato, ignorato, scavalcato da decisioni prese altrove. Sono le furie del popolo, tra parentesi, sovrano, per cui per sortilegio è stato sfilato lo scettro, il denominatore comune delle pur diverse anime. E queste furie, confermate purtroppo dalle recenti improvvide esternazioni istituzionali, attraversano le società in tutte le sue componenti, sull'intero asse destra-sinistra. Il secondo fattore è lo scioglimento di tutti i popoli. Può sembrare paradossale, ma è così. Questo cosiddetto populismo rampante è in realtà senza popolo. Anzi, è il prodotto della fine di tutte le precedenti aggregazioni sociopolitiche. Nella marea che ha invaso le urne il 4 marzo non c'è più il popolo di sinistra, lo si è visto e lo si è detto, ma neppure più il popolo padano con la nazionalizzazione della Lega Salviniana e neanche il popolo dei Vaffa con la transustanziazione di Di Maio in rassicurante uomo di governo. C'è il mélange di tutti insieme, sciolti nei loro atomi elementari e ricombinati. Così come ci sono ben visibili le tracce di tutti e tre i populismi italiani che nel mio populismo 2.0 avevo descritto nella loro successione cronologica: il telepopulismo berlusconiano antecrisi, il cyberpopulismo grillino post-Monti, il populismo di governo renziano pre-referendario. E che ora sembra precipitare in un punto solo, in un unico calderone in ebollizione al fuoco di un non popolo, altrimenti privo di un sé. Per questo credo di poter dire che siamo lontani dai vari fascismi e neofascismi novecenteschi, esasperatamente comunitari in nome dell'omogeneità del Volk, e nello stesso tempo che viviamo ormai in un mondo abissalmente altro rispetto a quello in cui Gramsci pensò il suo ordine nuovo, fondando su quello l'egemonia di lunga durata della sinistra. Se quel modello, in quanto espressione della razionalità produttiva di fabbrica, come cellula elementare dello Stato nuovo, l'attuale prevalente visione del mondo trae al contrario origine dalla dissoluzione del lavoro come soggetto sociale, si fonda sulla sua sconfitta storica, e dall'emergere di un paradigma egemonico che fa del mercato e del denaro, di due entità per definizione priva di forma, i suoi principi regolatori. È appunto, nel senso più proprio, un disordine nuovo e del suo correlato, la disuguaglianza selvaggia, la propria cifra prevalente. A questo modello insostenibile, il soggetto politico che sta emergendo dal caos sistemico che caratterizza la maturità neoliberista non si contrappone come antitesi, ma ne trasferisce piuttosto lo statuto anarcocapitalista nel cuore del politico. Non è il corpo solido piantato nella società liquida, è a sua volta liquido e volatile. Continuerà a quotare alla propria borsa l'insoddisfazione del popolo esautorato, ma non gli restituirà lo scettro smarrito. Continuerà a prestare ascolto alla sua angoscia da declino e da marginalizzazione, ma non ne arresterà la discesa sul piano inclinato sociale, scaricandone rabbia e frustrazione su migranti, rom e homeless, secondo la tecnica consumata del capro espiatorio. Condurrà probabilmente una lotta senza quartiere contro le attuali oligarchie per sostituirsi ad esse, ma non toccherà nessuno dei fondamentali del sistema. È pericoloso proprio per questo, per la sua adattabilità ai flussi umorali che lavorano in basso e per la sua simmetrica collusione con le logiche di fondo che operano in alto. E proprio per questo personalmente non farei molto conto sull'ipotesi che a breve tempo il loro governo vada in crisi per le sue contraddizioni interne o per un conflitto mortale con l'Europa che non saranno loro ad affossare con un'azione deliberata e consapevole, sta già facendo molto da sola con la sua tendenza suicida. Se vorremmo combatterli dovremmo prepararci ad avere davanti un avversario proteiforme affrontabile solo da una forza e da una cultura politica che abbia saputo fare a sua volta il proprio esodo della terra d'origine, che sia preparata a cambiarsi con la stessa radicalità con cui è cambiato ciò che abbiamo di fronte, non certo da un fantasmatico fronte repubblicano, somma di tutte le sconfitte. Questo è il lungo articolo di Marco Revelli, per quello che mi riguarda condivisibile fino a un certo punto, ma d'altra parte la rassegna stampa del Wombat non è certo una rassegna di nostre opinioni, ma anche di approfondimenti e opinioni degli altri, quindi di ciò che troviamo interessante e che può fornire degli spunti di riflessione. A questo punto il nostro l'abbiamo fatto, del governo abbiamo parlato, ci siamo liberati la coscienza, Salvini l'abbiamo detto almeno 3-4 volte nel corso della trasmissione, possiamo andare oltre, giusto? E andiamo in Irlanda, perché finalmente una bella notizia è successa, finalmente qualcosa che aspettavamo in realtà da veramente decine di anni, ovvero il referendum sull'aborto in Irlanda, che è andato strabene, hanno stravinto i sì e quindi possiamo esultare. Io devo dire, ho guardato un po' di video e mi stavo veramente commuovendo perché erano bellissimi. Perché avevi proprio la sensazione di una liberazione di un intero popolo. E quindi quello che è successo in Irlanda direi che insomma è stato abbastanza importante e merita un lungo approfondimento. Siamo andati a leggerci Onda Rossa e in particolare, oltre a un piccolo articoletto, vi facciamo ascoltare due interviste, una stessa intervista che noi però abbiamo tagliato in due micro pezzettini, che non vanno tanto a parlare del referendum in sé, perché su quello secondo me avete già un po' letto e poi insomma un po' già l'articolo in sé ne parla, ma approfondiscono e raccontano due episodi che forse non sapete. Uno sono le Maddalene, la Magdalene, che poi spiegherà l'intervista cosa sono, qualcosa che ha scioccato profondamente, la cui scoperta ha scioccato profondamente la società irlandese nel corso degli ultimi anni e che in qualche modo ha portato poi a una sfiducia e a un crollo della fiducia nella Chiesa Cattolica degli ultimissimi anni, che probabilmente è stato anche parte del risultato di questo referendum. Cioè non è un caso che siamo arrivati a proporre questo referendum e a vincerlo. Probabilmente ci sono state delle radici insomma un po' profonde, tra cui la scoperta di queste Magdalene e altre cose che stanno venendo fuori via via e che danno un po' la cifra di quello che è successo, cioè dell'umore anche del popolo irlandese e nord irlandese, perché in realtà chiaramente la dichiarazione un po' di tutti post referendum è stato: va bene, adesso abbiamo vinto qui nella Repubblica d'Irlanda, il prossimo passo è proporre questo referendum e vincerlo anche in Irlanda del nord, dove la situazione è forse per certi versi ancora più complicata. E il secondo spezzone di intervista ci racconta proprio di uno stupro che è avvenuto a Belfast, il cui processo si è celebrato adesso, che ha visto assolti tutti gli imputati, da cui però è scaturita una fortissima e importante risposta, e quindi insomma si parlerà di questo, ecco. Beh, ho fatto una lunghissima introduzione. No, va benissimo. Allora, quindi l'articolo di Radio Onda Rossa è: referendum in Irlanda, un deciso sì all'aborto. In tutta l'Irlanda, non solo nella capitale Dublino e nei centri urbani, ma anche nelle zone rurali, dove si temeva una vittoria del no, è stata schiacciante la vittoria del sì. L'87% dei giovani e il 70% delle donne hanno dunque votato per rendere meno restrittive le leggi sull'aborto. Il fronte del no, con in testa i cattolici, non ha potuto fare altro che ammettere la sua sconfitta. Le gerarchie cattoliche del paese hanno invocato la scomunica per chi ha votato sì, diviso al suo interno invece il Sinn Féin. Ne riparliamo con una compagna che vive in Irlanda e che avevamo già sentito prima del voto. Ecco, infatti, quindi l'intervista ve la attacchiamo direttamente, il primo spezzone e poi il secondo tutto insieme. Tante donne, no, il movimento dal basso è stato fortissimo e tra l'altro è stato multigenerazionale, è stato veramente commovente perché sono stati veramente pochi i deputati che hanno supportato il movimento, ma sono state tantissime le donne che sono uscite fuori. E citerei tra le varie associazioni, citerei i sopravvissuti delle Maddalene, delle lavanderie. Non so se sapete che la chiesa qui aveva le lavanderie. No. Questo è un enorme scandalo per il quale potremmo fare un'altra chiacchierata se vi va. Praticamente in ogni città la chiesa cattolica aveva delle lavanderie che erano vere e proprie prigioni dentro le quali vivevano chiuse donne descritte come promiscue, donne giovani ragazze madri, a volte vittime di incesto. Lì veniva cambiato loro il nome e i bambini una volta nati venivano venduti negli Stati Uniti e ad oggi non si sa. Quando, scusa? Questo fino al 1996. Ah, cioè, l'altro ieri? 1996, sì sì. E praticamente oggi è uscito sulla pagina del giornale un articolo riguardante l'ultimo scandalo rispetto alle Maddalene e ci sono 126 cittadini che adesso verranno chiamati dai servizi sociali ai quali sarà detto: voi non siete figli dei vostri genitori ma siete figli di donne che erano state chiuse dentro le Maddalene. E voglio specificare che erano vere e proprie carceri, le donne non venivano pagate per il lavoro che facevano e i soldi venivano ritornati alla chiesa e le suore hanno, una volta che i ragazzi sono tornati indietro a chiedere notizie delle loro mamme o le madri, una volta uscivano dalle Maddalene per sposarsi direttamente o uscivano per andare in altri istituti, una volta che tornavano indietro e chiedevano dei registri di nascita gli veniva vietato l'accesso e è successo in vari casi che il Vaticano abbia ordinato di bruciare i registri delle nascite. Quindi ci sono appunto queste associazioni dei sopravvissuti delle Maddalene che hanno dato una forza, un'energia pazzesca a questo referendum proprio perché il problema è sempre quello, è un problema religioso in questo paese, il problema è che le donne devono portare questo stigma e che fino adesso sono state relegate a un ruolo nella società completamente secondario. E insomma, se pensiamo alle Maddalene, ci sono donne che sono state schiave per anni dentro queste istituzioni. Ovviamente adesso c'è una grossa mobilitazione perché questo movimento del sì ha messo assieme tante donne, quindi come succede qualcosa sono tutte in piazza. Non so se avete sentito del processo per stupro a Belfast. Ok, c'è stato un processo per stupro due mesi fa in cui quattro ragazzi, sono quattro giocatori di rugby della squadra nazionale, hanno stuprato questa donna e sono usciti tutti quanti, sono stati assolti tutti e quattro. E le strade dell'intero paese sono state inondate da donne di tutte le generazioni. sono uscite fuori, ho sentito donne dell'età ottantenni, quattordicenni, sessantenni, hanno preso il microfono e hanno raccontato qual è stata la risposta della società, delle loro famiglie, della polizia e del sistema giudiziario. Quindi ci troviamo in un momento in cui c'è una grossa risposta dal basso e sono fiduciosa che le cose cambieranno il prima possibile. Vi abbiamo messo un pezzo dei Big in Japan, Society for Cutting Up Men, che è un pezzo super violence, che secondo me ci stava bene dopo queste notizie dall'Irlanda. Allora, proseguiamo nella nostra rassegna stampa e arriviamo a Radio Onda d'Urto. Sì, dopo Info Out e Radio Onda Rossa arriviamo a Radio Onda d'Urto. Di Radio Onda d'Urto abbiamo, come sempre, da www.radioondadurto.org. Pisa, lavoratori immigrati come schiavi nelle concerie della provincia. A te oggi ti toccano le cose così, le notizie brutte. L'uomo di 47 anni del Senegal, preso a sprangate ieri, 28 maggio, al mercato di Castelfranco di Sotto, è stato pestato perché non riusciva a pagare l'affitto. Si è trattato di un vero e proprio agguato, in pieno giorno, davanti a decine di persone. Mentre percuotevano la vittima con una spranga, gli assalitori, tre italiani, proprietari di una conceria in zona, urlavano insulti relativi ad affitti non pagati. Poi sono saliti sul proprio mezzo e scappati a gran velocità fra la folla, rischiando di coinvolgere altre persone. I tre sono stati identificati e fermati. Alcuni mesi fa avevano aggredito un altro ragazzo senegalese, loro dipendente, che si era permesso di chiedere chiarimenti su stipendi a lui dovuti e mai accreditati. Kevin dello spazio sociale Neuros di Pisa. E nulla, questa era l'introduzione all'intervista che c'è sul sito e noi vi facciamo ascoltare. Sì. Più in generale possiamo dire che questa è una zona, il distretto del cuoio, dove c'è una fortissima quantità di lavoratori migranti, in particolare senegalesi. La provincia, all'interno della provincia sono circa 100.000 abitanti all'interno di questo distretto. La manovalanza più forte è quella dei senegalesi, che da anni comunque in realtà vivono nel territorio. Ci sono senegalesi che vivono anche da 20 anni lì dentro, però c'è questo meccanismo per cui si lavora con o al nero o con contratti di scadenza di settimana in settimana, poi ovviamente ci sono varie sfaccettature, però la cosa più assurda è il ritmo del lavoro che si ha lì dentro, l'impossibilità di andare in bagno durante i turni, tutta una serie di vessazioni che vengono fatte, e questo si aggiunge, a questo si aggiunge anche il discorso degli affitti, perché spesso, ora ovviamente insomma tutto è da accertare, ma pare proprio che la famiglia che ha aggredito, la famiglia si intende insomma i proprietari, i padroni di questo appartamento che hanno aggredito questo ragazzo senegalese, sono i soliti che qualche mese fa hanno aggredito con le stesse modalità, con bastoni e catene, un lavoratore della propria conceria. Quindi insomma questo è proprio il meccanismo su cui si basa anche lo sfruttamento, sulla violenza, sul terrore, sul fatto che il padrone comanda e vuole dimostrare il proprio comando anche con le maniere più dure. Tra l'altro voglio precisare che il secondo lavoratore che tu hai appena ricordato, che era stato appunto pestato da probabilmente gli stessi proprietari della conceria, chiedeva semplicemente chiarimenti per quanto riguarda il suo stipendio. Esatto, esatto. In sostanza questo ragazzo aveva lavorato per circa 2 settimane, e poi non gli è stato, insomma, dopo varie promesse di rinnovo, che poi per rinnovo si intende di continuare a lavorare, perché questo era un lavoratore ovviamente al nero, insomma, dopo che non è stato più chiamato al lavoro, voleva comunque il compenso di quelle, ovviamente, di quelle 2 settimane, che ammontava all'incirca, secondo pattuizione, a 500 euro. E per 500 euro che i proprietari non hanno voluto dare al momento della provata riscossione, sono stati non solo questo ragazzo, ma anche un altro suo collega, sono stati aggrediti da circa 6 persone. Questo è successo qualche mese fa. Condizioni da schiavi praticamente? Sì, possiamo dire di sì. Nella zona lo chiamano il profumo dei soldi, perché si lavora col rischio di altissime malattie, però insomma il lavoro c'è. Il problema del lavoro è che è a queste condizioni, a delle condizioni pessime. Non c'è nessun tipo di intervento lì dentro, cioè non dico le istituzioni perché immagino non è, magari... Sì, esiste l'associazione Assoconciatori, perché che in realtà è una tutela delle concerie, insomma dei padroni delle concerie, perché fondamentalmente è un lavoro con una bassa, diciamo, chi lavora, le aziende sono molto strutturate sul territorio e hanno pochi dipendenti, quindi 10-20 persone al massimo per ogni conceria, ma si parla di un distretto immenso, quindi centinaia di concerie, centinaia di aziende del proprio indotto che parlano di chimica, di settori particolari, comunque tutto legato alla conceria. Il problema è che è tutto straframmentato e quindi è anche difficile organizzare qualcosa dal punto di vista sindacale, o insomma sindacale, per come ovviamente i sindacali confederali fanno poco o nulla, sono sempre al ribasso e soprattutto difendono soltanto chi ha un posto di lavoro fisso da anni, ma insomma e soprattutto soltanto a parole, mentre invece la stragrande maggioranza lavora senza un contratto oppure con contratti, ripeto, rinnovati di mese in mese, di settimana in settimana alle volte. Quindi scusami, cercando un po' di riassumere la condizione di questi lavoratori schiavi, pagano l'affitto ai loro padroni, quindi nel momento in cui tu perdi il lavoro perdi anche naturalmente la misera casa, perché si parla di posti letto praticamente, di situazioni di sovraffollamento, in una situazione lavorativa molto nociva. Sì, sì, assolutamente, sì, certo, non è come hai detto te ora. Non è raro che i padroni delle concerie poi mettano in affitto, per così dire, se di affitto si può parlare, degli appartamenti in cui vivono a decine questi lavoratori, diciamo, ripeto, perché è importante, in maggioranza straniera senegalese, che tra l'altro c'è una fortissima comunità. E poi sì, le condizioni di lavoro sono cioè più che condizioni di lavoro, c'è anche il discorso della nocività, per cui l'aria è davvero irrespirabile. Chiunque abbia avuto l'occasione di passare da queste zone si accorge subito del fortissimo odore chimico derivante dalla tratta delle pelli, dalla concia, no? dal lavorare le pelli. Negli ultimi anni sono aumentati in maniera esponenziale i contratti delle agenzie interinali, che ormai sono, possiamo dire, la maggioranza, anche quindi nel lavoro legale il contratto classico è fatto tramite agenzie interinali, e questo è un dato interessante. Ho capito. Benissimo, Kevin, ti ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a tutte e tutti e a presto. A presto, ciao. Ricordo, con noi al telefono era Kevin del Nevros di Pisa. Ecco, questo appunto era la corrispondenza di Radio Onda d'Urto con un compagno di Pisa del Nevros, che raccontava in maniera, direi, piuttosto chiara, esaustiva, la situazione nella provincia del Pisano, nelle concerie. Sempre rimaniamo su Radio Onda d'Urto, da cui abbiamo preso anche un altro articolo su il finanziamento delle armi da parte del finanziamento dei programmi di armamento da parte del governo italiano. Governo chiaramente si intende non quello appena insediato, ma insomma, appunto, penso che su questo ci sarà una bella continuità, perché su queste cose si trova sempre l'accordo. L'articolo è del 31 maggio e si intitola "Oltre 1.400 milioni di euro per i droni militari, come cambia la forma della guerra?". Ve lo leggo e poi abbiamo un piccolo contributo, un'intervista, perché ci sono due interviste all'interno di questo articolo che, se volete, vi invito ad andare a ascoltare per intero sul sito di Radio Onda d'Urto, radioondadurto.org. Noi vi facciamo sentire solo una delle due, che è l'intervista a Emilio Quadrelli. Allora, l'articolo dice questo: 1.434 milioni di euro per finanziare i programmi di armamento dell'esercito italiano con i droni militari. Questo è l'ammontare totale della spesa richiesta dal Ministero della Difesa, così come è riportato nel dossier redatto da Milex, l'Osservatorio sulle spese militari italiane. Già 700 milioni sono stati spesi per l'acquisto di velicoli, penso sia un refuso, a pilotaggio remoto, e a breve le camere verranno chiamate a votare per un raddoppio degli investimenti. Il finanziamento per i droni non solo solleva questioni politiche ed etiche relative all'uso delle risorse pubbliche, ma parla anche della trasformazione in atto degli eserciti. Ci presenta il dossier Enrico Piovesana, curatore del rapporto e membro dell'Osservatorio sulle spese militari italiane, e questa è la prima delle due interviste contenute, che però non vi faremo sentire, che, se volete, ve la trovate sul sito di Radio Onda d'Urto. Per approfondire il tema del mutamento della forma guerra e dell'evoluzione degli apparati bellici, abbiamo intervistato Emilio Quadrelli, sociologo, autore del libro Sulla guerra. Il passaggio da paradigma della guerra industriale con gli eserciti di massa a quello con gli eserciti di massa a quello del conflitto ad alto livello tecnologico con soldati professionali. Questo è l'abstract, più o meno quello che racconta Quadrelli nella sua breve intervista. Quadrelli, molti di noi lo conosceranno, è appunto un sociologo, uno scrittore di saggistica molto interessante, che vi invito a seguire, a leggere i suoi libri, perché ha scritto cose spesso piuttosto illuminanti. Beh, sì, allora, intanto questo non è un passaggio, direi, tecnologico, che però sta anche dentro a un passaggio complessivo dentro il quale la forma guerra si è radicalmente trasformata, ormai a partire, diciamo, dal 1979, cioè dalla caduta del muro, dal momento in cui si è sancito la fine, almeno così, questa è stata la linea di tendenza del pensiero strategico occidentale, la fine degli eserciti di massa, la fine della guerra come forma, della guerra sotto forma di guerra industriale, che aveva caratterizzato l'aspetto bellico per tutta un'arcata storica, e entrando in quello che è una sorta di guerra postmoderna, post-nazionale, post-esercito nazionale, post-esercito di massa. Questo lo abbiamo visto, insomma, in tutte le guerre che si sono sviluppate dalla prima guerra del Golfo in poi, dove sostanzialmente si è avuto sempre un grande impiego di tecnologia e tendenzialmente una riduzione costante invece dell'elemento umano, insomma. Questo anche perché solitamente le guerre sono state combattute contro avversari dove lo scarto tecnologico era incommensurabile, ma da parte degli attaccanti nei confronti di questi nemici, i quali possedevano una tecnologia di fatto primitiva rispetto a quella che veniva utilizzata dagli eserciti occidentali, e soprattutto questo significava anche dare un volto completamente nuovo alla guerra, tant'è vero che non si è mai più parlato di guerra, ma questo mi sembra anche l'aspetto forse più interessante. Si è sempre parlato di operazioni di polizia o per altro verso in qualche modo di guerra umanitaria finalizzata a stabilizzare, a stabilire un nuovo ordine in determinate aree geografiche e geopolitiche. In particolare mi sembra che con questo passaggio, i droni, queste cose qui abbiano molto a che fare con quello che è stata definita proprio dal pensiero strategico occidentale un aspetto centrale della guerra contemporanea, che è quello della guerra tra la gente. Quindi l'idea di impiegare una tecnologia finalizzata a un combattimento che non sarà più in campo aperto, non sarà più tra eserciti che si scontrano a masse, gli eserciti che si scontrano su dei campi di battaglia, ma una guerra che viene condotta essenzialmente dentro gli agglomerati urbani e quindi che viene condotta sulla e contro la gente. Ecco, questo è l'aspetto sicuramente attuale della forma guerra. Quindi oggetto centrale della guerra, più che un ipotetico esercito avversario che non sembra darsi, a meno che non cambino alcuni scenari, perché poi andrebbero anche in ballo questioni relative a scontri con potenze che possono essere, come ad esempio la Russia, la Cina, potenze in grado di contrastare anche da un punto di vista tecnologico gli apparati bellici occidentali, ma in linea di massima la guerra è pensata per essere combattuta dentro aree dove non si scontra contro un nemico in grado di controbattere la tecnologia, ma sostanzialmente contro un nemico che è rappresentato da civili, da popolazione, eccetera, eccetera. Ecco, e ora siamo tutti molto contenti e rassicurati dopo questa intervista. Ci è presa malissimo, va bene, andiamo oltre, sarà meglio, ma non ci rallegreremo, perché andiamo a leggere invece adesso China Files, un'altra fonte di informazione da cui prendiamo molto spesso notizie per costruire la nostra rassegna stampa. A sua volta China Files rimanda da medium.com un articolo pubblicato anche sul Manifesto. E l'articolo è intitolato «Avvelenati dal rame e presi a fucilate dalla polizia. 13 morti nel Tamil Nadu». Martedì 22 maggio, decine di migliaia di persone che protestavano contro la riapertura di una fonderia di rame nei pressi della città di Tutkudi, in Tamil Nadu, India meridionale, sono finite sotto il fuoco delle forze dell'ordine, chiamate a sedare una protesta durata più di 3 mesi. I manifestanti da almeno 20 anni denunciavano livelli di inquinamento straordinari dovuti all'attività della fonderia operata dalla Sterlite Copper, società controllata dal conglomerato minerario britannico Vendata Resources. Gli scarichi della fonderia hanno documentato numerose associazioni per la tutela dell'ambiente locale, hanno contribuito a un aumento vertiginoso di malattie legate all'apparato respiratorio e cardiaco, dermatiti e tumori. Nonostante la fonderia fosse stata multata dalla Corte Suprema nel 2013 per una perdita di gas velenosi, ha continuato a lavorare a pieno regime, tanto da annunciare, lo scorso febbraio, piani per un'espansione infrastrutturale. In tutta risposta, gli attivisti e la popolazione locale hanno organizzato una serie di manifestazioni pacifiche chiedendo la chiusura definitiva dell'impianto. Quando martedì i manifestanti hanno cercato di raggiungere la residenza del District Collector di zona, la carica amministrativa che avrebbe dovuto rinnovare la licenza della fonderia scaduta lo scorso mese di aprile, e hanno trovato a ostruire la strada barricate della polizia, è partita una sassaiola contro le forze dell'ordine, mentre i capannelli di manifestanti incendiavano automobili e autobus. La polizia ha risposto lanciando lacrimogeni e, come mai successo in Tamil Nadu nella storia recente, sparando direttamente sulla folla. Il bilancio mentre scriviamo è fermo a 13 morti e alcune decine di feriti. La reazione sproporzionata adottata dalla polizia locale è stata criticata dalle opposizioni locali e nazionali, che hanno chiesto la testa del capo della polizia, P. Mahendran, nel frattempo trasferito ad altra mansione. Le proteste sono continuate fino alla fine della scorsa settimana, con le forze dell'ordine schierate dal governo locale, guidato dal partito Tamil All India, Anna Dravida, Munnetra, Kazagram, Ayadmk, a protezione delle sedi dell'amministrazione cittadina e della fonderia. Il chief minister, il primo ministro del governo locale del Tamil Nadu, ed Appadi K. Palaniswami, difende l'operato della polizia e ha dichiarato: «Se qualcuno è attaccato, il corso naturale delle cose prevede che si difenda per proteggersi. Questo è ciò che ha fatto la polizia». Diversi esponenti dei partiti di opposizione locale, tra cui i partiti della sinistra e l'Indian National Congress di Rahul Gandhi, sono stati arrestati per aver protestato contro la brutalità delle forze dell'ordine. Mercoledì scorso l'amministrazione locale ha staccato la corrente alla fonderia, in risposta a voci che indicavano una ripresa delle attività nonostante la nuova licenza non fosse ancora stata lasciata. Di Matteo Miavaldi. Ecco, sentiamoci un po' di musica, va? Si fa uno stacchetto e poi torniamo subito in rassegna stampa. We must fight for in the cities and the farmlands, the trenches full of mud. War's always been the bosses wiser. Just laws cannot defeat us. But who'll defend the workers who cannot organize? And the bosses send their lackeys out to cheat us. Money speaks for money, the devil for his own. Who comes to speak for the skin and the bone? What a comfort to the widow, a light to the child. Male che c'è Billy Bragg che ci fa riprendere un po'. E sempre China Files, altro paragrafo inquietante, anzi molto inquietante direi, questa volta dalla Cina. Titolo: in Cina le telecamere intelligenti entrano in classe. Non promette bene. La Cina ha lanciato bomba verso il 2030, anno nel quale vuole raggiungere il primo posto per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, vede nella scuola un momento fondamentale nella costruzione della società futura. Alunni e alunne cinesi sono da tempo nel veleno di diverse riforme che riguardano proprio lo studio e l'approccio all'intelligenza artificiale. Secondo alcuni osservatori, inoltre, il segreto del futuro cinese dell'intelligenza artificiale sarebbe proprio da cercare in alcuni metodi sperimentali applicati nel campo dell'educazione. Ma nella scuola numero 11 di Hangzhou si è andati oltre, perché l'intelligenza artificiale non è solo un insegnamento, ma è diventato anche lo strumento con il quale i comportamenti di alunni e alunne saranno analizzati. La notizia è la seguente, riportata dai media statali cinesi e da diverse agenzie internazionali. Nella scuola di Hangzhou sarà introdotto il sistema intelligente per la gestione dei comportamenti della classe. Il sistema, si legge nei diversi articoli, è progettato per registrare 6 tipi di azioni. Leggere, scrivere, alzare la mano, alzarsi in piedi, ascoltare l'insegnante, appoggiarsi sulla scrivania. Registra anche le espressioni facciali e coglie segnali che indicano felicità, rabbia, agitazione, paura o disgusto. Tutte le informazioni che sono raccolte vengono naturalmente analizzate e inviate poi agli insegnanti, che in questo modo dovrebbero sorvegliare meglio i comportamenti e il rendimento degli studenti, con tanto di dati faccine che su un display indicano quali sono le emozioni prevalenti in classe. Ovviamente tutto questo è virgolettato. Si tratta di una notizia che potrebbe essere l'inizio di un romanzo, di una puntata di una serie distopica. Chissà che non la ritroveremo ancora una volta in Black Mirror. Non siamo nel caso di realtà aumentata, bensì in una stramba normalità che comincia a essere la cifra della Cina contemporanea. Pensiamo alla marea di what if nascosti intorno a questo esperimento. Come sono utilizzate poi le immagini? Solo per analisi comportamentali degli studenti? Per capire dunque come farli stare più attenti o per comprendere dall'attenzione e i movimenti qualche predisposizione, nel bene o nel male, verso altre materie o un certo tipo di comportamenti? E se le camere fossero a un certo punto girate per sorvegliare gli insegnanti, chi giudicherebbe gli insegnanti in quel caso? E se venissero utilizzati per cominciare a rilasciare agli alunni mini social credit fin dall'età scolastica? Siamo di nuovo a compirne uno per educarne 100? Non abbiamo tutte le risposte. Quanto sappiamo ad ora è che quanto accadrà nella scuola di Hangzhou esemplifica al meglio alcuni aspetti dell'attuale corsa cinese all'intelligenza artificiale. Telecamere di sorveglianza ultra sofisticate, della stessa azienda che provocò discussioni tanto negli Stati Uniti quanto in Italia e di cui scrivemmo su eastwest.eu. Riconoscimento facciale e altre analisi dei dati. Scopo? Tenere tutto sotto controllo, educare fin da subito al Weiwen, al mantenimento della stabilità. Ma soprattutto emerge l'utilizzo che Pechino sembra voler fare di queste nuove tecnologie, nelle quali eccelle sempre di più. Se la Cina è uno stato dove la governance è sempre più associata al controllo sociale, a Pechino sembrano pensare che al controllo sociale si possa venire educati. Pechino racconterà al mondo che l'obiettivo è il miglioramento delle condizioni di vita. La verità è che questi strumenti, sia lì sia in Occidente, sono ambiti proprio perché consentono un controllo sempre più sofisticato che va in direzione di forme sempre più predittive di analisi dei comportamenti. Avere una camera puntata per tutto il tempo passato a scuola, non poco, abituerà i cinesi a vivere fin da piccoli sottoposti ad un controllo e ad un monitoraggio costante dei propri comportamenti. Come al solito, non sembra essere un problema di privacy. Il vicepresidente Zhang Guangzhou ha raccontato ai media, i produttori delle videocamere invece hanno preferito non commentare, che il sistema raccoglie e analizza solo i dati, senza salvare le immagini. Le informazioni vengono poi costruite in un server locale, non in cloud, per limitare il rischio di compromissioni esterne. Zhang Guangzhou ha poi aggiunto che il sistema non ambisce a sorvegliare il singolo studente, ma punta a gestire il comportamento dell'intera classe. Anzi, secondo il prete, tutto sarà a vantaggio degli studenti. Ed eccoci alla scuola. Il sistema cinese, basato sull'esame di ammissione all'università, il Gaokao, come momento più importante della vita di una persona, perché da quell'esame dipenderà il suo futuro, è da tempo oggetto di studi per una sua riforma capace di mettere la Cina al pari con altri paesi stranieri per quanto riguarda metodi di insegnamento e di avanguardia. Il metodo per lo più mnemonico usato in Cina ha molti detrattori. La verità è che in Cina ci sono parecchie sperimentazioni, tanto da far scrivere su Wired, come si legge, scusate, un test W, non so se leggere come nome. Ormai leggi solo in cinese. Sì. Come fa scrivere su Wired a Alice Berard, autore di Natural Born Learners, che il segreto del successo tecnologico cinese sarebbe proprio da trovare negli studenti cinesi. Baird racconta che alcune sue esperienze cinesi a conferma di una società ormai concentrata verso l'obiettivo del 2030. Alla Peking University, ad esempio, incontra un insegnante a capo di un esperimento per immaginare la scuola del futuro. Aveva creato un'istituzione organizzata in stile Harry Potter, con i leoni, i draghi, i colibrì, i lupi, ma radicata nel domani. I bambini imparavano le arti e le scienze, ma sviluppavano anche la loro immaginazione, la creatività e il lavoro di squadra. I bambini usavano monitor touchscreen per montare il film, mentre altri scrivevano con attenzione i caratteri cinesi nei loro quaderni. Di Simone Piranni. Oddio, non so qual è meglio delle due scuole. Vabbè, allora, detto ciò, volendo abbiamo ancora un po' di tempo per l'ultimo articolo. Lo facciamo o non lo facciamo? Ma sì, dai. Dai, facciamolo. Eravamo un po' incerti, però sì, lo facciamo. Quindi ritorniamo su InfoOut con un articolo che racconta di una indagine in corso su il PM Padalino, PM che ha intentato diversi processi al movimento Nosav negli ultimi anni, qualcuno dice un tantino incancrenendosi, un tantino in maniera ossessiva. Ecco, questo articolo ci racconta di un'indagine, questa volta a suo carico, tratto da infoout.org, appunto vi vado a leggere l'articolo per intero. L'indagine sul PM Padalino con l'elmetto. Una fuga di notizie ed ecco che un'indagine che doveva restare riservata finisce sulle prime pagine di alcuni quotidiani locali. Grazie a ciò che viene scritto scopriamo il perché del trasferimento repentino del PM con l'elmetto Padalino, fa anche rima, alla procura di Alessandria. Lui, PM tutto d'un pezzo, ultras del TAV e sempre impaziente a ritagliarsi pezzi di notorietà, a quanto pare risulta sottoposto a un procedimento disciplinare da parte del CSM per violazioni di procedure per ora. Andando a fondo nella vicenda, sempre stando ai quotidiani locali, si evince come una piccola organizzazione parallela, una cricca di amici composta da magistrati, giudici, polizia giudiziaria, avrebbe piegato, tra virgolette, alcune indagini a scopi di natura personale per ricevere vantaggi, prebende, eccetera. Il caso Sbelli pare essere il furto di un server della polizia giudiziaria, un'indagine di poco conto per cui il PM Padalino avrebbe fatto carte false per vedersela assegnata. Da lì il tentativo di alcuni carabinieri di incastrare un loro collega che portava avanti inchieste sgradite alla cricca e la loro necessità di avere un PM Padalino, così afferma La Repubblica, pronto a firmare carte per indagini non ufficiali. Ma non basta, ad essere indagati anche l'appuntato dell'ufficio di Padalino e, udite udite, il prode difensore di parte civile nel maxi processo contro i Notav, Pierfranco Bertolino. Bertolino è lo stesso che nel 2013 denunciò di aver ricevuto 3 proiettili e gli fu dato ampio risalto dalla stampa locale. Quello che descrisse così il movimento: la valle di Susa è stata trasformata in un parco divertimenti per delinquenti. Bellissima, questa me la ricordo, questa stupenda descrizione che aveva dato. Gente che quando non sa cosa fare va in valle. E la cosa peggiore è che sono persone che con la valle e con il TAV non hanno nulla a che fare. Questa era la dichiarazione che aveva fatto questo Bertolino, e che nel processo per terrorismo per un compressore bruciato fu avvocato del sindacato di polizia SAP. Bel curriculum. Vero? Non ci esaltiamo per le inchieste giudiziarie, sia chiaro, anche grazie a personaggi come Padalino abbiamo ben presente quali siano i nostri luoghi preferiti e il Tribunale non è sicuramente uno di questi. Ci viene da chiedere però se dopo i dossier su Rinaudo, l'altro PM con l'elmetto, le inchieste su Padalino e su quasi chiunque abbia sventolato la bandiera anti-Notav, esiste un modo migliore per dimostrare l'inconsistenza e la parzialità di chi nell'ultimo decennio ha messo in campo una vera e propria crociata contro il nostro movimento. Non sappiamo quale sia il detto migliore con cui chiudere queste poche righe. Ride bene chi ride ultimo, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, chi di spada ferisce, insomma, forse tutti e molti di più, sta di fatto che noi adesso ci facciamo una grande risata, perché a differenza di altri stiamo ancora qua. Avanti Notav, e questo articolo è ripreso da InfoOut, ma in realtà a sua volta preso da notav.info. Okay, interessante la cosa di campo divertimenti per teppisti e delinquenti. Bello, vero? Val di Susaland, Scontrilandia, Riotlandia, ah, sì, come sì, lo perché... vogliamo chiamare. Sì, ma poi ci si diverte un monte, cioè, a farsi gassare. Incluso nel biglietto anche l'esperienza processo con bunker blindato. Sì, sì, rischiare 30 anni. Sì, sì, sì, è tutto molto bello e divertente, sì. Sì, sì, sì. Te la giochi bene, c'è anche le botte bonus. Sì, sì, magari ti spaccano il cranio se proprio butta bene. Sì. Un bel mondo hanno visto, sì. Va bene, direi che con questo possiamo chiudere qui la rassegna stampa mensile del Wombat, cioè, o meglio, settimanale per noi, però per questo gruppetto di oggi è mensile, ve lo ricordo. Ma ci risentiamo con la rassegna stampa lunedì prossimo, anche se vi ricordo la rassegna stampa va in onda anche il mercoledì e il venerdì in replica, e poi alle 19 e a mezzogiorno, insomma all'ora di pranzo, all'ora di cena, e poi invece adesso potete proseguire nell'ascolto dei vari programmi del Wombat con le varie cose, Senza Frontiere, Passaggio a Nord-Ovest, la stampa rassegnata, bla bla bla bla, tutto il resto della fantastica programmazione di Radio Wombat. A lunedì prossimo, quindi. Ciao ciao. Ciao.